verde sembri tu. Oh, luna che cominci già a spuntar nel cielo pien di magico splendor, tu vieni ancora a farmi ricordare il mio perduto amor. Yeah.